Anavo torre, col regno come egli, si chiamava comiene, Pepe Ceccionene. Nasci in mezzo a Bambagia, la notte cagionava, la madre sua sudava, uccidi a quarraggia. Tenia manco un servo, da giù torrene gerbo, e per soldata via, a mia e già via. Ogni giorno re vicino, passavo lo bambino, chievo tutta scarra, par mare la nisciarra. Pepe Ceccionene, che era vero re, chiamava la donata, tutti li so soldati. Pesce tonno tonno, coniglio babbo babbo, accendo lo pelome, correre a rozzolone. Io sono stradurato, un essere incazzato, armati semiferra, potrei chiarare guerra. E partero per lo fronte, armati fine dente, rimavo lo nemico, ascoltate in zocchetteco. Pesce con natava, un coniglio che scappava, a cento con muvava, ma che forza ci dava, e se ne ero tutte, con l'ossa rotte e rotte, ridanna pace e doce, a collavi e te doce, ridanna pace e doce, a collavi e te doce. Anavo torre, un regno come e si chiamava comiene, Pepe Ceccionene.